La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, 16, 31 primi e 45 secondi. Eccoci qui in diretta agli studi di Milano, Scagenero. Vi saluto e vi ringrazio come sempre per la versione di Oscar. E vi ricorda l'indirizzo, appunto, versione di Oscar, @radio24.it. E dopo il minuto di traffico, io vi annuncio da adesso, siccome la trasmissione di ieri che abbiamo dedicato al nuovo codice degli appalti e ai punti che a giudizio di molti piccoli costruttori che ci scrivono restano aperti, e la trasmissione di ieri ha tentato di focalizzarli con un confronto di uno di loro che abbiamo scelto perché ci aveva scritto, è il relatore in Parlamento, il senatore Esposito del PD, e cioè cosa capita sotto e sopra la soglia del milione di euro per le gare rispetto alle piccole imprese. Siccome abbiamo ricevuto altre lettere, ne do lettura sinteticamente dopo la pausa del traffico, quindi lo dico ai costruttori che aspettano perché è stato molto interessante. Credo che faremo un'altra puntata, visto che poi siamo ancora nel periodo transitorio per il nuovo codice, e vediamo che cosa capiterà. Però insomma ci sono migliaia di imprese in sofferenza e il nostro compito come radio di servizio è quello anche di dare voce a loro. Vi dico di che cosa parliamo oggi e poi faccio una brevissima introduzione sulle novità della giornata che ci sono rilevanti. Oggi parliamo di una apparente però insomma solita contraddizione italiana. Da una parte ci poniamo il problema di capire che cosa avviene sulla famosa promessa che aveva fatto Renzi. Ve lo ricordate quando andò da Vespa appena iniziato il suo governo dicendo che il debito commerciale dello Stato sarebbe stato pagato, lui diceva entro settembre del primo anno del suo mandato in carica, altrimenti sarebbe andato a piedi a un certo santuario. Non è così e faremo un punto di questo. Dall'altra parte vediamo invece che lo Stato, sì, come ci diranno i numeri, resta molto lento a pagare quello che deve, dall'altra chiede invece con durezza di incassare quello che pretende, e anche con i suoi dipendenti adotta lo stesso criterio che con i debiti commerciali, cioè non paga i suoi dipendenti. E anche qui avremo una voce diretta per farcelo raccontare. Sintesi brevissima invece della novità di giornata: da una parte il mercato in borsa, e per questo vi rinvio ovviamente al Focus Economia subito dopo la fine della trasmissione con Sebastiano Barisoni, sta andando male, perde circa un punto. Perché? Perché c'è stata la tanto attesa sentenza della Corte Europea di Giustizia, se non che i regolatori italiani e la politica italiana sono andati storti, perché la Corte di Giustizia Europea, che doveva pronunciarsi su una impugnativa rispetto al bail-in sollevata dalla Slovenia, invece ha confermato la piena legittimità del bail-in, e quindi si riapre la questione, visto che l'Italia chiede le deroghe per il Monte Paschi eccetera eccetera, e quindi le cose si confermano, perdonatemi, un pochino più vicine a quelli a quello che dicono alcuni come me o come una trasmissione che facciamo il sabato Conti della Belva, rispetto invece alle richieste italiane. Quindi il mercato va un po' storto per questo e il titolo MPS ovviamente perde. Secondo sviluppo, il Fondo Monetario, anch'esso dopo la Banca d'Italia, ha corretto al ribasso le attese di crescita per quest'anno dell'Italia post Brexit e con tutte le incertezze internazionali che sono in corso. Quindi il Fondo Monetario dice più 0,9%, pochissimo più dell'anno scorso che abbiamo fatto più 0,8. Ieri è uscita anche la stima aggiornata, le previsioni del REF, il centro studi molto autorevole, per me un punto di riferimento, guidato da Fedele De Novelis, che parla addirittura solo di un più 0,6 quest'anno per l'Italia. E quindi questa è la prospettiva, questo significa naturalmente conseguenze per la finanza pubblica, vedremo la prossima legge di stabilità, però significa meno entrate e significa, rispetto a quello che il governo si propone, cioè di fare ancora più deficit, una strada che diventa ancora più ripida. Vedremo naturalmente. Terza cosa, l'osservatorio sul precariato dell'INPS conferma una caduta verticale dei contratti a tempo determinato, perché sono diminuiti nel frattempo gli incentivi. Scendiamo sotto il 2014 addirittura nei dati del trimestre. A conferma, perdonate anche su questo il piccolo gufo che parla, del fatto che la decontribuzione valeva molto di più del nuovo articolo 18 col Jobs Act. Fine di con queste tre pilloline che vi richiamano a un'analisi realistica e non viziata dagli occhiali della propaganda dei dati economici, e andiamo invece al punto di cui ci occupiamo oggi, cominciando appunto dai tempi di pagamento. Lo facciamo con uno dei nostri ospiti sistematici, grazie al fatto che con la sua iniziativa www.trunumbers.it alimenta con dei numeri le possibilità di leggere la realtà. Numeri, poi ognuno ha le sue opinioni, ma intanto numeri. Quindi è con noi Marco Cobianchi di Panorama, che si è inventato questa bellissima iniziativa. Andate sul sito, vedrete quanti ne sforna su tutti i problemi di volta in volta che sono all'ordine del giorno e all'onore delle cronache. Grazie di essere con noi, Marco. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, voi avete fatto un approfondimento su la fattura elettronica, doveva essere uno degli strumenti che attraverso la quale recepivamo la direttiva europea con i tempi strettissimi di pagamento dei debiti commerciali dello Stato ai suoi fornitori. Andiamo a vedere se è stato così. Dunque, la fattura elettronica è una legge dell'anno scorso e in luglio siamo esattamente a un anno da quando è entrata in vigore, perché entrava in vigore 3 mesi dopo l'approvazione. Ora, a un anno quindi, abbiamo materiale per fare un bilancio, insomma, di come è andata. Premetto che quella legge lì doveva servire per imporre alle amministrazioni pubbliche pagamenti veloci delle fatture, perché appunto le fatture arrivavano in forma elettronica. Questa legge italiana si è combinata con la direttiva europea che imponeva il pagamento delle fatture della pubblica amministrazione tra i 30 e i 60 giorni, la differenza sta dal tipo di amministrazione che doveva pagare. Ora, a un anno di distanza, la realtà è che il debito delle pubbliche amministrazioni è il 110% in più di quello che dovrebbe essere se queste due norme fossero state rispettate. Quindi, se fossero state rispettate, avremmo un debito che è assolutamente fisiologico. Sto parlando del 2015, naturalmente. Sì, certo. 2015, 110% in più. La componente fisiologica del debito delle amministrazioni pubbliche per quanto riguarda le fatture verso le imprese private dovrebbe essere di un miliardo e nove, mentre invece siamo oltre i 70 miliardi a un anno di distanza. E voi ti dico anche quali sono i peggiori pagatori. Sì, dillo. Tanto per deprimerci ancora un po' di più. Allora, i peggiori pagatori sono i comuni. I comuni arrivano naturalmente mediamente, e questi sono i dati del 2014, attenzione, quindi prima dell'entrata in vigore di questa norma, che naturalmente non ha funzionato ovviamente. Nel 2014 i comuni ci mettevano mediamente 180 giorni, poi seguite dalle regioni, dalle ASL con 160 giorni, poi le amministrazioni centrali con 140 giorni e le amministrazioni statali, tipo le università, ci mettevano 100 giorni. Questo naturalmente stiamo parlando della media, perché sappiamo benissimo che esistono delle amministrazioni, soprattutto al sud, la famosa ASL napoletana o calabrese, che ci mette più di 400 giorni, quindi la media nazionale è questa. Adesso il fatto che la legge sulla fatturazione elettronica è entrata in vigore un anno fa sostanzialmente non ha funzionato, il debito cala molto molto lentamente. Se nel 2015 il debito delle pubbliche amministrazioni in più rispetto alla componente fisiologica era 110, nel 2014 era 126, quindi in un anno sì è sceso, ma se fosse stata rispettata la lettera, così come lo Stato chiede a noi di rispettare alla lettera le leggi, dovrebbe essere più della metà, insomma, il debito verso l'amministrazione. La cosa singolare, Marco, è che questo tema che era uno di quelli in cima all'agenda pubblica quando nacque il governo Renzi, perché si pensava che attraverso la regolarizzazione dei tempi di pagamento, ricordiamo che quelli della direttiva europea sono 30-60 giorni, sarebbero così affluite una ingente massa di liquidità all'economia per rafforzare la ripresa, è come se invece si fosse dissolto, nessuno ne parla più. Sì, infatti colpisce molto anche me questa ricerca che abbiamo fatto, ci è venuta in mente semplicemente parlando con le società appunto che hanno a che fare con la pubblica amministrazione. Siamo andati a vedere se esistevano dei dati ufficiali, perché questi sono dati ufficiali rispetto ai risultati di questa legge, ovviamente dati che non siamo andati a prendere sui siti governativi, perché ovviamente sono parte in causa. Questi dati sono della Banca d'Italia, che ha un occhio meritoriamente molto attento sul tema del debito delle pubbliche amministrazioni verso le imprese private, meritoriamente molto attento. E non ne parla effettivamente più nessuno, ma sai, la narrazione renziana è anche questa, cioè promettere, fare la legge, ovviamente, perché la legge è stata fatta così come era stato promesso che sarebbe stata fatta, però poi il, diciamo, l'execution della legge lascia molto a desiderare, cioè sostanzialmente le varie articolazioni in cui si articola lo Stato italiano continuano sostanzialmente a comportarsi come prima, insomma il debito continua ad aumentare, perché poi questo debito qui è frutto della giacenza di fatture vecchie che, sopra le quali si accumulano quelle nuove che non vengono pagate. Ricordiamo che quando c'è stata il tentativo di dire adesso risolviamo questa faccenda, sono stati messi a disposizione degli enti locali una cinquantina di miliardi e sì. Di quelli sono stati utilizzati quanti? Sono stati utilizzati pochi. Tra l'altro questi miliardi, attenzione che la maggior parte di questi miliardi sono stati stanziati dal governo Letta, non sì. Dal governo Renzi. Sì. Quindi anche questa attenzione, sono stati messi a disposizione, poi bisogna vedere qual è il tiraggio da parte dell'amministrazione, cioè un comune può decidere di continuare a non pagare perché deve far vedere le fatture, c'è anche questo problema, nel senso che i comuni, i piccoli, i medi, eccetera, devono poi vedere se le fatture sono fatte bene, se sono arrivate nel modo giusto, se sono fatturate all'amministrazione giusta, quindi è più che altro è al problema economico, cioè non ci sono i soldi per pagare le fatture, perché questo è un problema reale. C'è anche un problema di caos amministrativo. C'è un problema di caos amministrativo anche perché l'abbiamo detto più volte su questo tema, quando appunto 2 anni fa ce ne si occupava in maniera tambureggiante, una maniera delle amministrazioni pubbliche per aggirare i limiti della spesa era quella di far passare spesa corrente per spesa per investimenti. Incredibilmente nel nostro paese ci sono 2 discipline diverse per la spesa corrente rispetto a quella per investimenti, cioè mentre la spesa corrente impegna spese di competenza, quella per investimenti risulta solo dalla spesa per cassa, quella che poi naturalmente è tenuta sui mandati di pagamento del Tesoro da parte della Banca d'Italia, poiché di fronte alle fatture di cui arrivavano i soldi per pagare l'arretrato, se questo arretrato faceva emergere comportamenti impropri da parte della contabilità dei comuni, ecco il freno naturalmente a farli emergere, perché così spieghiamo a chi è a casa che non è che è un freno incomprensibile, è un freno che maschera, diciamo così, disinvolture contabili a sì, volte. C'è da mettere anche in conto che non pensiamo mica che tutte le amministrazioni pubbliche siano in grado di ricevere una fattura elettronica, cioè noi una fattura elettronica è detta così, sembra una sciocchezza, ma poi la devi anche ricevere, saper processare, saper pagare tutto in via elettronica. Ecco. Un altro modo per, diciamo così, svicolare dai limiti, molto spesso i comuni fanno fatturare dei consumi ha delle scatole vuote, cioè le famose partecipate scatole vuote in cui c'è un presidente, 15 consigli di amministrazione e un dipendente. Ecco, quelli a che cosa servono? Perché sono nate? Certo, per dare una seggiola, una poltrona, uno stipendio ai compagni politici, ma anche per metterci dentro i debiti del comune. Quindi se un comune deve riscaldare la scuola media, la fattura la fa mandare a questa scatola vuota che si chiama gestione scolastica del comune di XY. Questa scatola vuota ovviamente non ha ricavi, però è piena di debiti, e questo spiega il motivo per il quale eliminare le controllate delle amministrazioni locali è molto difficile, perché se devi eliminare una controllata piena di debiti fai saltare le società private che aspettano la fattura che hanno inviato a quella società. Comunque, intanto, come vedete, primo approfondimento per vedere gli istogrammi e i grafici, andate su truenumbers.it, i debiti sono lì a 70 miliardi, promessa mancata da parte dello Stato. Intanto grazie a Marco Bianchi, adesso andiamo alle informazioni stradali e ci sentiamo tra un minuto e mezzo. Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end. Eccoci qui, tornati in diretta a 16.47. Prima avete sentito nella prima parte il bilancio della promessa del pagamento dei debiti commerciali dello Stato non mantenuto. Andiamo a un'altra ascoltatrice invece che ci ha chiamato per esporci il caso che non riguarda solo lei, ma riguarda, sentiamo quanto, i suoi colleghi. E questo è un caso un po' particolare, perché qui non si tratta dello Stato che non liquida i suoi debiti commerciali con le imprese fornitrici, ma di uno Stato che non paga gli stipendi. Adesso vediamo se è così e perché. Grazie intanto a Rosanna De Angelis di averci scritto, di aver accettato di parlare qui in pubblico oggi pomeriggio. Buon pomeriggio, Rosanna. Buon pomeriggio Oscar Giannino e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, grazie per questa opportunità. E di che? Lei insegna? Sì, insegno geografia economica e turistica alle scuole superiori in provincia di Milano e io vi ho contattato proprio per denunciare la situazione drammatica in cui si trovano migliaia di docenti come me. Perché? Perché non percepisco lo stipendio, almeno io, da marzo 2016. Ma da ho marzo. Colleghi, sì, marzo 2016. Ho anche colleghi che non percepiscono anche da febbraio 2016, quindi comunque siamo tantissimi. Si stima che siamo circa 30.000 e forse anche di più. Parlo sia di docenti che di personale ATA. Ma com'è possibile? Guardi, io non glielo so dire perché noi per esempio contattiamo per esempio noi PA, che fa parte del MEF, contattiamo noi PA sarebbe noi pubblica amministrazione. Sì. Poi la Ragioneria di Stato territoriale, il MIUR, le segreterie scolastiche, tutte ci rimbalzano con la solita scusa. Sì, ma ci sono. Ma vi rimbalzano, ma vi diranno delle ragioni formali per cui non venite pagati. Dicono soprattutto non ci sono fondi, mancanza di fondi, poi non ci danno per esempio informazioni dettagliate riguardo le date di emissione dei nostri stipendi. Anzi, guardi, proprio un esempio, in questi giorni stiamo contattando molte volte noi PA proprio perché proprio il numero ufficiale, insomma il numero verde, proprio non ci rispondono al telefono, cade la linea. E quindi ecco, si troviamo nella situazione un po' drammatica e cioè, tipicamente da quando lavoro a scuola tardavano sempre circa di un mese, al massimo due, però quest'anno io non ho mai ricevuto lo stipendio mensilmente, solo sempre in ritardo. E quindi diciamo che quest'anno scolastico ha superato proprio i limiti della decenza, ci ha messo tutti proprio nella precarietà più assoluta. E come fate a campare senza stipendio? Guardi, io ogni tanto chiedo aiuto ai miei genitori, poi c'è mio marito che lavora fortunatamente, però no, io veramente mi trovo in estrema difficoltà. Quindi ecco, poi nonostante ciò noi andiamo tutti i giorni a scuola, svolgiamo il nostro lavoro con passione anche, perché comunque ci piace fare quello che facciamo. Il problema è che non ci pagano, questa è la verità, non ci pagano, sono anche cioè la segreteria sempre in ritardo anche con le autorizzazioni, ecco qua, questa è la situazione. Domanda, ma i sindacati che vi dicono? Ma i sindacati sinceramente non ci danno informazioni adeguate, noi diciamo siamo un po' abbandonati a noi stessi. Io devo dire che da una parte, non lo so, oltre che abbracciare lei e tutti quelli che si trovano in queste condizioni, però lei mi fa sentire in difficoltà. Quando io ho letto ho detto ma non è possibile, poi invece sono andato a controllare ed è come dite. Ed è, a mio giudizio, cari ascoltatori, incredibile il senso della misura, delle parole che Rosanna pronuncia. Altri esploderebbero in una serie di improperi, lei lo dice come se si trattasse di una cosa purtroppo che le capita, e sì, mi capita. Ve ne informa, però santo Dio, io non riuscirei a evitare di urlare, ecco, ma io perché sono un po' sanguigno di temperamento, ma voi non avete neanche una data approssimativa per capire, cioè la ragioneria, il mio... Guardi, hanno detto fine luglio, sicuro ci pagano, fine luglio. Ho detto, ok, però ecco, non è che ci hanno dato una data precisa. E a quel punto vi pagano tutto l'arretrato o si scala mese per mese tenendosi... non lo sapete? No, me forse pagano, mi hanno detto aprile e maggio. Forse. Guardi, è un po' di... non so, a volte mi vergogna a raccontare. No, ma come storia. Si vergogna? Lei si vergogna? E di che cosa si vergogna lei, scusi? Qualcun altro, forse, diciamo così, perché vedo che molti ascoltatori dicono che critichi troppo, tu tiri la volata alle penne a Salvini. Io non tiro la volata a nessuno, cari ascoltatori. Cosa dobbiamo fare? Non dobbiamo dare voce a chi lavora nella scuola e non viene pagato? Questa vi sembra una critica politica? No, questo ha a che fare con le funzioni elementari di un ordinamento che deve essere tale da rispettare l'impegno di chi lavora, di chi ha passato una vita oltretutto a prepararsi per esercitare questa professione. Non voglio aggiungere che questo è uno Stato che ha contratto con decine e decine di migliaia di precari, come non avveniva in nessun'altra parte del mondo avanzato, il fatto di non onorare l'impegno di metterli in ruolo. Lo abbiamo fatto con la riforma della scuola, che è servita solo a questa e che pure ha cancellato poi una fascia, no? Forse riguarda anche lei, lei fa parte della terza fascia cancellata dalla riforma. Terza fascia, ecco, sì. Appunto, quindi si tratta anche in quel caso di una promessa non mantenuta, certo da altri governi, però sapete com'è, non è questione, non sto mica criticando questo governo, però come si fa ad avere 10, 20, 30 mila insegnanti non pagati da marzo? Ecco, questo capita in Italia, cari ascoltatori, e nel frattempo io intanto ringrazio Rosaria, teneteci informati, i miei microfoni restano aperti per voi se non vi pagano entro una settimana, torneremo a rompere le scatole, invito un sottosegretario Faraone a quel punto e vediamo che cosa vi dice, siamo qua per questo. E nel frattempo un altro ascoltatore, ecco, lo Stato invece quando deve incassare, questo si chiama Luca Baldi, e dice: caro Oscar, è arrivata oggi la lettera della bonifica renana, consorzi di bonifica, ne abbiamo più volte parlato, baracconi molto spesso che sopravvivono anch'essi per i consigli di amministrazione più che i loro interventi reali per bonifiche davvero agrarie, argini dei fiumi eccetera eccetera. E con mio grande disappunto, ci scrive Luca, vedo che rispetto al 2015 il costo è aumentato del 33% per il rispetto di non si sa bene quale norma. La bonifica renana è uno dei tanti baracconi statali, ci scrive, composti per lo più da funzionari ex politici trombati a fine carriera, da tanti scaldi poltrone. I lavori di pulizia dei canali infatti vengono appaltati e si discute molto qui dei criteri di aggiudicazione, ma per non volermi fare male del tutto, ci scrive Luca, sono andato al link del personale e ho visto quanto segue. Hanno un presidente che guadagna 155.000 euro, due direttori che guadagnano uno 99.000 rotti euro e l'altro 113.000, due vice direttori che guadagnano uno 64.000 e l'altro 72.000 euro, e mi sono fermato lì perché forse è questa l'unica spiegazione, ci dice Luca, per cui naturalmente da un anno all'altro quello che paghiamo per questo consorzio di bonifica aumenta del ben 33%. Ripeto, siamo in anni di deflazione, quindi l'indice dei prezzi al consumo ha un andamento negativo, ma questi sono gli andamenti. Come vedete, quando si tratta di incassare lo Stato, e lo Stato non tollera, capite, ritardi dal punto di vista dei cittadini, quando si tratta di pagare il debito commerciale o i suoi dipendenti, come avete sentito da Rosanna, no, lo Stato a quel punto può anche non pagare per mesi i suoi dipendenti, che è ancora molto più grave che non pagare i suoi fornitori. Torniamo brevissimamente alla trasmissione di ieri, anche se ho messo veramente pochi secondi, e voglio dire che tra l'altro ci hanno scritto, resta, vi ricordate che ieri parlavamo di quello che succedeva col sopra il milione, con l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al massimo ribasso, e ci ha scritto Resta dicendo: guardate che, come avete detto voi, non come dice Esposito, l'offerta economicamente più vantaggiosa è peggio del massimo ribasso, perché l'impresa partecipante può offrire migliorie che costano rispetto al progetto in gara e anche il ribasso sul prezzo viene valutato 40 punti. Dopodiché la commissione viene sorteggiata passeggiata tra la terna indicata dall'ANAC solo per le gare sopra la soglia comunitaria, sopra i 5,2 milioni, non sopra il milione di euro. Quindi per le gare sotto soglia può nominare persone al suo interno. E quindi la lettera è lunga, procede su molti altri punti, ma ripeto, ci dovremo tornare sopra perché ci sono troppe cose che non tornano su questo nuovo codice degli appalti. Intanto continuate su Radio 24, continuate con Focus Economia, appuntamento con me Alessandro Mina domani alle 8:15 con Attenti a noi due.